Io vorrei ringraziarvi e portarvi un calorosissimo saluto da parte della segreteria della Camera del Lavoro per aver accolto il nostro invito, a testimonianza dell'importanza della giornata che noi abbiamo immaginato per quest'oggi. Il giorno di Natale di 3 mesi fa, nella sua amata Piombino, ci ha lasciato il nostro carissimo compagno Mario Pescini. Ogni volta che qualche compagna o qualche compagno ci lascia, ciò costituisce per la nostra organizzazione e per noi stessi una perdita. Questo sentimento, nel caso di Mario, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui, è particolarmente vero, forte e sentito. Perché vedete, la storia della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la storia della nostra CGIL, ha visto passare negli oltre 100 anni dalla sua nascita molti autorevoli dirigenti. Molti tra di loro hanno lasciato un segno politico di un'autorevolezza legata alla loro capacità e al loro impegno. Altri sono ricordati per le loro caratteristiche umane, per i legami che hanno saputo creare con chi gli stava intorno. Pochi però hanno segnato il loro passaggio in CGIL, lasciando contemporaneamente ed insieme memoria di tutte e due queste qualità. Certamente Mario Pescini, che qui oggi vogliamo ricordare con tutto il nostro affetto, rientra in quella ristretta categoria di uomini e di dirigenti sindacali che ci lasciano in eredità una storia politica ricca ed una vicenda umana fatta di rapporti e di emozioni che è stata un tratto fondamentale della sua esistenza e che lo fa ricordare a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo con affetto, grande simpatia e stima. Mario Pescini è stato un figlio del Novecento italiano. Lo è stato per storia personale e soprattutto per come lui, come molti altri, ha saputo interpretare e mettere a frutto la voglia ed il desiderio di riscatto sociale che al termine della Seconda Guerra Mondiale era forte e bisognoso di guide sicure ed autorevoli. Mario nacque nel 1928 a Piombino, terra segnata dalla presenza siderurgica. Quarto di 7 fratelli, ha subito fin dall'infanzia il fascino delle idee della madre, socialista prima e a seguito della scissione di Livorno iscritta al Partito Comunista Italiano. Famiglia povera e dignitosa la sua. Il padre macchinista all'Ilva di Piombino, Mario consegue la licenza elementare sotto le prime bombe della Seconda Guerra Mondiale. Entrò giovanissimo, come si usava in quel periodo, a lavorare in fabbrica. Un'esperienza dura, ma anche ricca di stimoli, con l'idea di fondo che da lì dovesse partire, cosa in larga parte avvenuta, un'idea di riscatto e di emancipazione della classe operaia. Si distinse fin da subito per le sue capacità e per l'impegno nel lavoro politico e sindacale, diventando in pochi anni il punto di riferimento per la CGIL, in una delle principali aziende siderurgiche italiane. In pochi anni diventò responsabile della FIOM di Piombino e poi segretario provinciale della FIOM di Livorno. La storia di quel periodo è una storia ricca, di lotte anche dure, di conquiste faticose, che Mario interpretò con impegno, acquisendo un bagaglio di straordinarie esperienze contrattuali che lo vide da protagonista nei rinnovi contrattuali tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, partecipando alle trattative nazionali al fianco di dirigenti del calibro di Pio Galli e Bruno Trentin. Mario arrivò a Como nel 1973. Come lui stesso ci racconta, a condurlo a Como fu, uso le sue parole, una purga decisa dal Partito Comunista e dalla FIOM per una scelta d'amore, in quei tempi e in quei luoghi considerata inaccettabile. I suoi primi passi a Como furono segnati da curiosità e anche, in qualche misura, di disorientamento. Per un luogo, anche dal punto di vista produttivo, così diverso dalle sue origini, gente molto riservata e un contesto politico così diverso dalla sua Piombino, in cui le forze politiche della sinistra erano forte maggioranza. Raccontava Mario, la sua meraviglia tenere assemblee in Sisma, in Ranco ed in altre fabbriche con produzioni così diverse da quelle da lui frequentate fino a quei momenti, così come era insolita per lui la presenza di tante donne nelle assemblee. In poco tempo riuscì, anche grazie alle sue doti umane, a conquistare tutti. La presenza oggi di alcune lavoratrici e lavoratori di quel tempo, oggi pensionati, ne è, io credo, la più bella conferma. Mario era un punto di riferimento nelle fabbriche e un dirigente riconosciuto ed autorevole dalle nostre controparti. Ancora oggi c'è in Confindustria Como chi ricorda le trattative tra lui e il dottor Brunialti, così diversi, ma che in poco tempo trovarono modo di mettere a frutto le rispettive intelligenze, consolidando i rapporti associativi con accordi innovativi e il reciproco riconoscimento dei ruoli. Il suo lavoro a Como fu caratterizzato, come emergerà dagli stralci dell'intervista realizzata nel 2006, da un carico di profonda innovazione, dalla ricerca di vie nuove, dalla capacità di rimettersi in discussione e di abbandonare le certezze consolidate, insegnamento quest'ultimo oggi di grandissima qualità. E poi c'è una vicenda che rimane e rimarrà nella storia della Camera del Lavoro di Como, la vicenda della Ranco di Lomazzo, vicenda che vide, lo vorrei ricordare a tutti, l'unico caso, credo in Italia, certamente a Como, di una multinazionale chiusa per decisioni della proprietà che grazie al lavoro del sindacato, di cui Mario, insieme a Cornelio Fontana, che oggi non può essere presente ma che ci manda un caloroso saluto, si riuscì a riaprire. Questa vicenda, per certi aspetti avventurosa, vide tra le altre cose una trasferta di Mario negli Stati Uniti, praticamente controllato a vista dalla polizia americana in quanto comunista. Ma la cosa più singolare fu che per ottenere il visto per quel viaggio dovettero intercedere le autorità di Oltretevere, cosa questa oggetto di ironie tra di noi fino all'ultimo. E poi le varie esperienze del sindacato tessili, al sindacato pensionati e all'Auser, di cui a Como fu fondatore, che verranno raccontate dai graditi ospiti di questo pomeriggio. Vorrei solo dire in proposito che tutte queste esperienze furono vissute e interpretate da Mario con l'entusiasmo, l'ottimismo e la curiosità che sono stati i tratti migliori del suo carattere. Nel 2006, come vedrete, abbiamo nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della CGIL realizzato un ciclo di interviste ai personaggi di rilievo della nostra Camera del Lavoro. Tra queste, quella a Mario, di cui vedremo un breve estratto, è davvero straordinaria. Io consiglio a tutti di guardarla. Lo è innanzitutto per le doti comunicative di Mario, davvero uniche, ma lo è anche perché costituisce una straordinaria narrazione di quello che è stato il Novecento del nostro paese, vissuto da una persona che è stata dalla parte giusta, dalla nostra parte, dalla parte del lavoro. Vorrei però concludere questa mia breve presentazione per dire anche un'altra cosa. Lo faccio sapendo di invadere un ambito delicato, personale e di intimità, ma mi viene dal cuore e spero di esserne all'altezza e di farlo con la sensibilità necessaria. Lo vorrei fare partendo da ciò che ho scritto quando mi è stato chiesto di esprimere a Mario un pensiero per un libretto a lui dedicato. Dissi in quell'occasione: per me non c'è Mario senza Mirella e non c'è Mirella senza Mario. La loro è stata principalmente e semplicemente una straordinaria e bella storia d'amore. Erano una coppia unica e affiatata, erano davvero complementari. Io insieme ad altri compagni abbiamo avuto il privilegio di incontrarli pochi mesi fa, con Mario già profondamente segnato dalla lunga malattia, contro cui ha combattuto fino all'ultimo, e lo ha fatto con il suo stile, uno stile che a me ha ricordato quello di un leone gentile. La cosa che però mi colpì profondamente in quell'occasione furono gli sguardi tra di loro, sguardi di complicità, di affetto. Si cercavano continuamente. Se mi è consentito, sembravano gli sguardi di due adolescenti. Una cosa che mi ha profondamente turbato, regalandomi un ricordo che porterò per sempre con me. E poi c'è Dario, o come diceva lui, il mio figliolo. Era davvero orgoglioso Mario del suo figliolo. Mi ricordo che nell'ultimo incontro l'ho preso da parte per chiedergli qualcosa del figlio e gli disse: te, il figliolo di un operaio che lavora in università, ma ti rendi conto? Io credo che per Dario e Mirella il distacco e la mancanza da quest'uomo straordinario debba essere stata un'esperienza molto dura. Ovviamente non ho io la pretesa di trovare parole adeguate per lenire tale sentimento, però una cosa la voglio dire a Mirella e a Dario che devono essere orgogliosi e devono anche sentirsi privilegiati di avere avuto per compagno, per padre, un uomo come Mario. Un uomo straordinario davvero che mancherà a tutti noi. C'è un importante cantautore italiano e in una delle sue canzoni più belle dice che nessuno mai muore per davvero. Io credo che ciò sia tanto più vero quando chi ci lascia, come nel caso di Mario, ha avuto la capacità di riempire le nostre vite, le nostre memorie di ricordi belli. Io personalmente, ma credo tutti quelli che lo hanno conosciuto, dedicheremo a ciò che ci ha lasciato in eredità una parte importante della nostra memoria positiva. Ciao da Mario. Dalla polizia, la diffusione dell'unità non la potevi fare perché ti arrestavano, andavi con la Costituzione in tasca, perché noi a diffondere il giornale si andava con la Costituzione in tasca, articolo 3, diritto e via, eccetera. E quando ci prendevano, ci portavano i guardi sui commissariato a discutere per questo e per quest'altro. Volantinaggio lo stesso, quindi era una cosa abbastanza pesante. Ora, per l'unità lo potevi anche fare una volta alla settimana, con l'attinaggi rantatti, potevi mica metterti via tutti quanti, perché la polizia ti menava anche, insomma. E quindi ci venne l'idea di quando c'erano i problemi della pace, i problemi della fabbrica, come veniva fuori un problema, cioè da diffonderlo, non si usava la ciminiera, cioè le ciminiere, insomma, c'era più un tono, si usava sempre la ciminiera lì perché ci restava più comodo. La ciminiera ha una porticina che misura la temperatura dell'aria e del gas che esce fuori, no? È una ciminiera di 60 metri. E noi avevamo fatto un buco dentro questa ciminiera e si prendeva pacchi di volantini, si buttava dentro della ciminiera, c'era il tiraggio, tirava su e piombino invaso da tutti questi volantini. Molte volte, ti ho detto, si usava anche la cosa, si usava anche la sirena. Succede che la direzione decide di togliere il pulsante dall'officina e portarlo in portineria dove c'era il presidio delle guardie. E si dice: porca miseria, come si fa ora a avvertire la gente, a dire c'è lo sciopero, a dire che c'è questa lì, perché ci hanno levato lo strumento di mano, è più faticoso. Allora viene l'idea di dire, insomma, non bisogna fregarli, bisogna almeno una cosa va fatta, insomma. Dai, ci viene l'idea di passare, mettere su un camion una bobina di filo elettrico, di cordone, insomma, di cavo elettrico. in un cave dove c'era dentro tutti i detriti dei forni, tutte le scorie su questo segno, coperta, che non si vedeva. Esce fuori dalla fabbrica, si fa andare su in un campo dove c'era una palina dove ci passava la corrente che veniva dentro lo stabilimento, e di lì agganciare, fare degli agganci provvisori, insomma, agganciare agganciare questo cavo alla corrente, farlo passare dalla strada e saltare il muro e portarlo sul tetto dell'officina. C'è lo sciopero, si va su dal capo personale e si dice: guardi dottor Rizzi, c'è lo sciopero, mi ricordo per quello, per questo e quest'altro. Voglio vedere ora come farete, che c'è da fare lo sciopero, che la sera non suona. Sì, vabbè, pazienza, sarà per un'altra volta, insomma. Però comunque lo sciopero è dichiarato, quindi lei prende atto di questa serie. Alle 10, la sirena suona, madonna. Attaccato questo lì, poi i nostri operai scapparono, perché potevi mica star lì a aspettare cosa. Che e allora cosa succede? Attaccato questi fili, questa sirena continuava a suonare. Piombino, ma che è successo? Ma che disgrazia! È tutta la niente davanti alla portineria, per sapere cosa era successo. Cosa ne voglio dire? Che poi si misero a ridere anche loro, perché, insomma, la cosa disse che non c'è niente da fare con voi, siete dannati, insomma. Di Vittorio, a fare un comizio a Piombino per il 1° maggio, la sfilata, avevamo avvertito la polizia, il commissariato, cioè, e la sfilata per andare al campo sportivo andò bene, lo fece il comizio, andò bene. Quando si tornò indietro, perché qualcuno lasciò la bandiera, tornava indietro con la bandiera aperta, insomma, sfilava, non era una sfilata, la gente defluiva proprio, non eravamo inquadrati, defluiva la gente, ma non erano tutte le bandiere che avevamo, qualcuno c'era la bandiera, sì, dettero, suonarono la tromba, dettero la carica, quindi picchiarono mica male e arrestarono 7 persone, sono stati 2 mesi e mezzo in prigione a Livorno, insomma, quindi cose inaudite, perché lo sciopero era finito. Nel 64 mi pare, sì, nel 64-65 io fui chiamato a Livorno a dirigere la FIOM di Livorno, perché il segretario della FIOM di Livorno passò a fare il segretario della Camera del Lavoro, io passai, mi chiamarono, insomma, non volevo andare, c'è una serie di storie, comunque insomma mi convinse ad andare a Livorno a fare il segretario del Lavoro, e trovai una situazione abbastanza diversa, buona da un punto di vista sindacale, con molti iscritti anche lì dentro, ma il tessuto produttivo era diverso, si formava la cantieristica, c'era la cantieristica, c'era la metalmeccanica, c'era la carpenteria, quindi questo è stato tutto il periodo. E a Livorno anche il tipo di contrattazione era molto diversa, era una contrattazione più leggera, più discutevi i cotti, mi discutevi anche sui contratti di lavoro, perché io partecipavo anche con la delegazione ai rinnovi contrattuali, facevo parte del Consiglio Generale della FIOM, facente parte anche delle commissioni, io seguivo le istruzioni dell'orario di lavoro un po' tutte per le aziende a partecipazione statale, perché la cantierista è partecipazione statale, la carpenteria era partecipazione statale, Piombino era partecipazione, quindi era una cosa, per dirti la differenza, cioè lui c'era un piccolo cantiere di un padrone che aveva una barca di vattrini a fa spavento, era padrone del porto sostanzialmente, era padrone dei rimorchiatori, sia delle navi che attraccavano sia per i rimorchiatori d'alto mare, aveva questa impresa che faceva le riparazioni, dipendeva dal settore metalmeccanico, e c'era da fare la contrattazione. Quando si andava nel suo ufficio, che era una baracca che faceva spavento, io mi vergognavo, di lamiera, una baracca di lamiera dentro, con un tavolino, con coso, cioè, la luce ovviamente, perché sennò si faceva. Allora si apriva la contrattazione, lui prima di mettersi a sedere accendeva la luce, era giorno, Dice, ma scusi signor Neri, ma perché accende la luce? Perché mi porta bene. Perché mi porta bene? Io se non c'è la luce mi dispiace, ma non faccio contrattazione. Allora, questo era un paternalista della Madonna, era difficile, era difficilissimo perché tutti i lavoratori dentro più o meno avevano bisogno di qualche cosa. La figlia si sentiva male, il prefetto che aveva la figlia doveva andare a Parigi, lui gli prese a Nord un aereo, lo portò a Parigi, faceva cose di stanno mica. E cioè, quindi c'era un paternalismo spaventoso. E quindi sai, non è che avevi tanta forza dentro, gente tutta iscritta alla Fiomma, tutta brava gente, tutta gente, però allo scontro erano un po' così, e quindi dovevi stare attento a ottenere il massimo possibile senza andare alla rottura con l'azienda, perché probabilmente sarebbero nate delle cose. Fecero venire da Pavia, mi pare, da Pavia fecero venire un tecnico specializzato per ristrutturare tutta l'azienda, per fare queste cose. E gli scontri erano duri, erano difficili, perché loro volevano ricostruire la catena di montaggio e noi invece avevamo sentito parlare, avevamo avuto tutte informazioni, avevamo esaminato attentamente la costruzione invece delle giostre. Perché? Ti permetteva la giostra di riqualificare, oltre che eliminare la routine di lavoro, perché sei sempre allo stesso posto, metti sempre lo stesso pezzo, metti sempre lo stesso. Loro facevano le cucine a gas, no? Facevano tutte queste cose. E capisci, dalla mattina alla sera costruire queste cose lì era. E quindi la struttura andava organizzativa andava rivista. E noi facevamo la battaglia per costruire la giostra. La giostra permetteva ai lavoratori di ruotare sui vari posti di lavoro, e questo, oltre a eliminare la routine, ti permetteva anche una qualificazione, una specializzazione, perché lavori in dieci posizioni diverse, quando arrivi all'ultima sei un operaio qualificato minimo, insomma, e quindi in un primo tempo diventavi anche più professionalizzato e guadagnavi anche di più. Quindi coglievi, insomma, più piccione una fava, insomma, questa era anche la realtà, cioè, ci fu un grosso scontro. In questo periodo di contrattazione io stavo a Piano Gentile. Un giorno arrivo a casa con Mirella, la mia moglie, e ti vedo un mobile alto, non mobile, una struttura di legno alta in questa maniera. Stavo in un condominio grande, vado dal portinaio mi si chiama, e dico, ma scusi, a casa mia c'è questa roba, ma chi l'ha portata? Ma dice, è venuto un camion, ha preso, l'ha messa lì, eccetera. Ma roba mia non è, perché mi sembrava possibile. Poi guarda, mi rendo conto che era una cucina da gas fry. Vado all'industriali, prendo Brugnatti, dico, senta, non si permetta più di far fare queste cose qui, perché io davvero la metto su in testa. Ora mi mandate il camion, ma no, Pescini, ma una delicatezza. La delicatezza, questa è un'offesa personale, altro è delicatezza. Siamo nel piano della lotta, e questa sera mi ha dato una cucina, ma vi rendete conto se state facendo o no, insomma. Difatti mandarono il camion e la riportarono via. Credo sia stata veramente una cosa interessantissima. Non fecero un ragionamento soltanto al loro interno, ma quando noi ci muovevamo con le lotte, questi si agganciarono al nostro movimento, spingevano i lavoratori a lottare, ad andare in fabbrica, manifestavano insieme ai lavoratori, nelle piazze manifestavano, venivano alle nostre corteie, venivano alle nostre sfilate. E questo ha permesso all'organizzazione sindacale, tanto da andare in crisi, perché cioè, non una crisi di fondo, ma intanto creò una rottura nel sindacato sostanzialmente. Il sindacato dovette per forza adeguarsi a situazioni nuove. Dentro le fabbriche, quando si incominciò a fare il discorso dello sciopero articolato, era una cosa cioè, che lasciava stupito tutti, non solo il sindaco, ma i padroni stessi non si rendevano conto. Fermi una linea, l'altra cammina, fermi un pezzo di reparto, l'altro va avanti, fermi questo, cioè te scioperavi, ma scioperi che non ne gravavano fortemente sul salario del lavoratore, ma che nel ciclo produttivo li metteva a terra. La formazione tua è stata costretta a cambiare completamente mentalità, modo di ragionare, modo di porti con i lavoratori, con i tuoi direttivi, perché non erano più gli stessi. Dentro, giustamente, entravano giovani che ti contestavano. Non era più il periodo dell'autocritica, era il periodo cioè, che dovevi davvero camminare a zatacchi e correre per stare dietro a queste cose, insomma. Arrivai a Coppola nel 73 perché, un po' per una purga, parliamo un po' così, perché io, successe questo, insomma, con questo lavoro che facevo, con alcuni problemi che nascevano con la moglie, con la prima moglie, decisi di arrivare a dividermi, a chiedere il divorzio, cioè prima la separazione della coppia, e questo diventò uno scandalo. Parte di colpa l'aveva lei, parte di colpa l'aveva anche io, indubbiamente non sono un santo, un cristino messo lì, ma insomma, comunque si arrivò al punto di rottura, e lì fu un dramma, fino al punto tale da far arrivare Pio Galli a Livorno, perché la cosa era veramente drammatica. Chi era d'accordo, chi non era d'accordo. Comunque il sindacato cominciò a dire, guarda, perché per entrare il sindacato, la Camera del Lavoro, parte della Fiomme, tutta una parte di Gezza Fiomme, disse, guarda, te sei un dirigente, sei un compagno, sei tutto, tante indorature e così via, se vuoi continuare a fare del dirigente bisogna che tu stia con la tua moglie, John Forza, o stai lì o te ne vai, perché dentro le fabbriche non ci puoi entrare, perché ti immagini lo scandalo, un comunista, un dirigente provinciale della Fiomme, tutto quello che hai capato, te va dentro la fabbrica e ti sei diviso la moglie, ti dà davanti a te, sei tutto, vieni via a raccontare barzellette, vieni via, ma tu, ma che moralità, insomma. E allora, visto che io volevo rientrare in fabbrica, loro mi dissero, no, in fabbrica non ci rientri, deve essere utilizzato, e via, si trova a lavorare la moglie e te ti liberi e te ne vai, però da qui, perché se no, questa fu la soluzione che trovò Pio Galli. E mi venne a fare tre proposte, per dirti, a me va a dire, vai in Cecoslovacchia, c'è la Federazione Internazionale dei Metalmeccanici, va lì dentro e fai questo lavoro. E mi disse, voi siete tutti matti, mi disse, ti porti dietro la moglie, il problema è risolto, e l'altra non è la tua moglie, quindi piangerà un po', ma insomma, e quindi vai a Praga. E disse, dammi un minuto di tempo, però a Praga secondo me io non ce l'ho, però comunque ci rifletto un po' sopra, non ti voglio dire di no, subito. Poi mi disse, vai a Bagnoli. Bagnoli è questo momento siderurgico, porca miseria. Poi seppi però che a Bagnoli toglievano come segretario il fratello del segretario della federazione del partito, era a Taranto, e c'era il segretario della Fiomme, era segretario della federazione del partito. Io c'ero già stato a fare le assemblee quando si rinnovava il contratto, a fare queste cose, sono stato a Bagnoli, insomma, e conoscevo la situazione, c'era della gente che aveva tre tessere in tasca. E vado a togliere il posto al fratello del segretario di federazione, io mi taglio la gola, io non ci vado, mi dispiace, ma lì dentro non ci vado. E allora scegli, Como, c'erano altre due o tre province qui, in Lombardia, Ma da come? Faccio un'esperienza in un mondo che non conosco, mi arricchisco ancora perché credo che ci sia possibilità, anche se è più piccola, anche se c'è meno attività produttive, meno perché non lo conoscevo dal punto di vista produttivo, mi ero fatto un'idea di questo tipo di video. Almeno dice il mondo dell'attore, cioè che da noi le ACLI non le sentivi, non c'era un rapporto. Il mondo cattolico nostro in Toscana, ma il Piombino, provincia di Livorno, operava al proprio interno e non gli interessava rapporti con noi, eccetera, ma anche noi con loro. Qui qua su invece sentivi dire, cioè, quindi diceva, beh, prova ad andare a Como, non può. Quando l'ho conosciuto. Per me Pescini era una figura emblematica, se posso dire. Lui è arrivato a Como, come racconta nel suo video, nel 73. Io avevo 23 anni, ero alle prime armi come sindacalista nella Camera del Lavoro di Erba, forse Marte si ricorda di avergli dato quell'incarico, e Mario ne aveva 45. E l'idea che mi ero fatto di lui, l'impressione che mi era stata immediatamente trasmessa, era quella davvero emblematica. Lui era come circondato da un'aura per me. Era toscano, comunista, della Fiom di Livorno, che era stata, ricordiamolo tutti, la nascita del Partito Comunista. Arrivava dall'esperienza della siderurgia. E noi qui che avevamo un metalmeccanico molto frastagliato, molto, molto differenziato. E la cosa che diceva adesso, questa purga, questa ragione per cui era arrivato a Como, per il fatto di essersi innamorato di Mirella ed essersi separato dalla moglie, era stato costretto a migrare sostanzialmente. Cosa inconcepibile per noi che allora eravamo un po' giovani, eravamo poi alla vigilia di quello che è stato la legge sul divorzio, le cose che sono venute dopo. Quindi c'era questo valore emblematico, questa figura emblematica. Ma poi ho visto subito, anche se io, dopo lo dirò, non ho avuto in realtà molta possibilità di lavorare al suo fianco, ma poi si è capito subito perché molte presenze dentro i luoghi di lavoro, ci sono qui compagni della Carcano, potrebbero esserci compagni della Falk, soprattutto quelle fabbriche che avevano una certa impronta, la sua esperienza contava tantissimo in quella direzione, ma poi ha saputo conquistarsi, come è visto bene anche nel video, l'affetto, la simpatia di tanti delegati, di tante delegate. E poi ha fatto anche operazioni complicate, quello di mettere, detta così magari può sembrare brutta, quella di mettere un po' di ordine. Noi eravamo in una situazione in cui l'FLM era sulla base della creatività, dello spontaneismo, delle cose, c'erano un po' di regole, diciamo così, che non funzionavano più tanto bene nei ruoli tra studenti, tra delegati, dentro gli organismi. Lui aveva avuto questa cosa anche di, in qualche modo, di affrontare un problema come questo, che era un problema che andava affrontato, e prima prima non era stato forse sufficientemente affrontato. Io, come dicevo, non ho mai avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con lui, perché quando, poco dopo che lui è diventato segretario della FIOM, ho fatto il consiglio di zona. Quando io sono rientrato in fabbrica, combinazione della fabbrica metalmeccanica, lui è andato al tessile, quindi non c'era più questo tipo di rapporto. Per tutto il tempo in cui lei è stato ai tessili, ai pensionati, io sono stato segretario, prima funzionario e poi segretario della FIOM, quindi non ci sono state molte occasioni di lavorare fianco a fianco. E paradossalmente, quando sono arrivato in Camera del Lavoro a seguire l'organizzazione, lì è la fase che è andato all'aula. Per cui, per queste ragioni, non posso raccontare delle cose dirette, personali, di un lavoro comune. Però mi è sempre dato l'impressione di essere un compagno tutto d'un pezzo. La solidità e la forza, cioè una persona su cui tu ti puoi appoggiare sempre. Ma attenzione, anche questo detto così può sembrare con una autoironia di fondo, secondo me si vede molto bene questa sua capacità di autoironia, soprattutto la sua capacità di ascoltare, di essere attento agli altri. Io non ricordo, non ho nessuna immagine di Pescini che litiga con qualcuno. Era capace di sostenere le sue opinioni e le sue idee ascoltando e senza entrare in conflitto con gli altri. E poi soprattutto Di Mario mi colpiva negli organismi, quando c'erano le riunioni, questa sua capacità di parlare per metafore, che sarà tipica dei toscani, ma in lui era particolarmente sviluppata, ed era una capacità di parlare per metafora che ti faceva capire subito la profondità del problema, magari più che mille discorsi, e soprattutto toglieva tensione la discussione, e questo è un altro dei meriti molto grandi. Io penso che la sua perdita è una perdita per noi, per me, molto importante, perché questo l'ha già detto il segretario generale, ma se mi permetto di ripeterlo. Lui è una persona che racchiude in sé un percorso e una storia. Un percorso e una storia che sono stati i comunisti e il sindacato, in particolare la CGIL nel Novecento. Noi l'abbiamo capito bene 6 anni fa, quando abbiamo registrato questa intervista. È l'intervista, credo, la più lunga, c'è qui Fabio, forse la più lunga di tutte le interviste fatte, dura più di 1 ora e mezza, e secondo me manca tantissimo. Cioè, io che ho provato a riguardarmi, manca tantissimo di cose che lui ha fatto, eppure dura tantissimo, dura 1 ora e mezza. Allora lui racconta la sua vita, alcuni li abbiamo visti qui come episodi, che però si intrecciano e spiegano dei fatti salienti, come dicevo, della storia dei comunisti, del PC in particolare, e del sindacato. E qui voglio cercare di spiegare perché dico questa cosa. Allora, voi provate a pensare a una persona che nasce nel 28, la madre è già comunista dopo che 7 anni prima si è fatta la scissione di Livorno, stiamo parlando, che ha lo zio socialista, che passa l'infanzia nella fase, come dire, di fascismo trionfante. Gli anni che vanno fino alla guerra sono gli anni del fascismo più o meno trionfante, che tra i 12 e i 17 anni vive la guerra, quindi lo sfollamento, tutto quello che era collegato alla guerra e la lotta partigiana, e che poi in una città particolare come Piombino costruisce il rapporto con la fabbrica siderurgica, che in quel caso è la fabbrica del paese. Cioè, Piombino si identifica, come si è visto anche chiaramente, col paese. E poi è interessante ragionare su Mario, sulla sua formazione, perché io penso che gli sia restata fino alla fine la sua formazione da militante comunista. Un aneddoto che voi non avete pescato dall'intervista, ma che a me piace tantissimo e dà l'idea di quel tipo di formazione, è quando lui viene costretto a fare autocritica di fronte a un'assemblea sterminata di persone, perché allora funzionava così nel Partito Comunista: se si faceva qualche mancanza, loro insieme a un altro gruppo di amici avevano sottratto 1,5 litri di vino e poche patate da un magazzino dell'azienda. Soltanto per aver fatto questa cosa viene costretto a fare autocritica di fronte a un pubblico sterminato di persone, per dire com'era l'impronta etica. Oppure quando lui si mette, e poi vi dico che secondo me c'è una cosa interessante, a fare l'organizzazione dei pionieri. I pionieri erano un'organizzazione giovanile del Partito Comunista, tra l'altro facevano un giornalino che era scritto da Rodari, per dire il livello di quell'esperienza, che era, a pensarci bene, la prima forma di organizzazione laica giovanile che esistesse in quel periodo. Io penso che queste cose lui si le portate dentro fino alla fine. E poi le note di fabbrica, qui nell'intervista che avete visto sono raccontate molto bene, contro il sistema repressivo interno, per le battaglie generali. E anche qui mi ha colpito molto quando lui racconta di dover andare dal direttore a dire che c'è lo sciopero per la Corea. Perché mi viene in mente Zambra quando dice: quando facevamo lo sciopero per la Corea uscivamo in cinque dalla Percosa. C'è una fase in cui la CGIL è molto ideologica, molto su battaglie di carattere generale, andava avanti a testa bassa su questo fronte, subendo poi, come è avvenuto, anche la sconfitta della Fiat del 55 e le cose che sapete, la divisione sindacale, e da allora c'erano già gli accordi separati, anzi venivano fuori in maniera molto netta gli accordi separati che in parte abbiamo vissuto in questo periodo. E poi la svolta, appunto, dopo la sconfitta della Fiat, è come la FIOM e la CGIL si riappropria della condizione dei lavoratori dentro la fabbrica. Quindi tutta la costruzione del sindacato negli anni 70 e del sindacato metalmeccanico in particolare. Io vorrei che fosse molto chiaro che la sua posizione, la sua esperienza in quel caso, non è un'esperienza di poco interesse, perché lui arriva a Como nel 73, che è stato il secondo contratto dei metalmeccanici più importanti, quello dell'inquadramento unico, e 3 anni prima c'era stato il contratto, diciamo, che ha sfondato, che poi ha portato una serie di altre conquiste. Ma questa roba è stata costruita prima, ed è stata costruita in particolare anche dentro le aziende siderurgiche, che erano aziende a partecipazione statale che hanno svolto una funzione fondamentale per la conquista di tutto il contratti, diciamo degli anni 70. E poi quando diventa segretario della FIOM di Livorno prende consapevolezza delle responsabilità che comporta dirigere un'organizzazione sindacale a quel livello e della complessità della condizione operaia in tutte le aziende. E mi preme anche segnalare nella sua esperienza che a Como lui riconosce di aver avuto incontro fecondo, molto fecondo, con il movimento di tipo cattolico, cioè con le ACLI, in particolare con le ACLI di quei tempi, ma potrei dire che con la CISL, con la FIM. Quindi il fatto che lui sia venuto da quell'esperienza piombino a Como l'ha maturato, l'ha arricchito di una relazione, di rapporti con altre, e con una realtà economica fortemente differenziata e particolare, col tessile, che in particolare negli anni 80 lui sarà chiamato a dirigere, tra l'altro chiamato a dirigere in un momento particolarmente difficile, perché ricordiamoci sempre che l'80 è stata la chiusura della principale fabbrica della città e lui si è sobbarcato la responsabilità di raccogliere un po' la situazione così come si era determinata. E poi anche nell'esperienza di pensionato, e quasi ho finito con questo elenco, era importante farlo per darvi l'idea di quello che è stato Mario anche dal punto di vista sindacale, gestire la vicenda dei pensionati nella seconda parte degli anni 80, cioè nella fase della crisi del welfare e nella fase in cui lo SPI ha cominciato a pensare che bisognava organizzarsi per leghe sul territorio. E poi dopo lo SPI, la fase dell'Hauser, in una fase di costruzione del volontariato laico, particolarmente sperimentale, spontaneistica, magari un po' ingenua, ma che lui ha affrontato anche col suo solito carattere. A me sembra molto simbolica questa cosa, passato dall'organizzazione dei pionieri, cioè della gioventù laica, all'organizzazione del volontariato laico dei pensionati, cioè tutta la sua vita dentro questo tipo di percorso. Quindi per questo io dico che nell'esperienza di Mario era chiusa un'epoca, un pezzo di quello che è stato la politica e il sindacato, e se devo avere un suggerimento è che questa intervista magari usiamola di più per i nostri corsi di formazione delegati, perché parlare di storia del sindacato in astratto quando abbiamo persone che hanno questo tipo di esperienza che possono portare. Però per chiudere io voglio tornare alla persona. Mario, come dicevo, è stato fino alla fine coerente e legato a questa storia, non solo per ciò che dice, ma per come lo dice. Provate ad ascoltarlo e capite che le cose che lui racconta sono cose che partono da sé, partono da se stesso, dal suo interno, da una profonda esperienza personale. E guardate che questo io credo che sia molto importante. Molte persone, col passare degli anni, col fatto che vanno a ricoprire ruoli più importanti, tendono un po' a prendere le distanze dall'organizzazione e persino dalla propria esperienza personale. Diventano ipercritici, se mi permettete la parola, magari tendono un po' a montarsi la testa, tendono a ripetere un po' ossessivamente le cose che sono state importanti per loro. Mario, io penso, era una persona consapevolmente segnata dalla sua appartenenza, consapevolmente segnata dalla sua appartenenza, dalla sua militanza, dalla quale non ha mai preso le distanze, ma non era una persona chiusa. La sua ironia, prima di tutto, nei confronti di se stesso, ne ha fatto una persona libera di pensiero, capace di ascoltare, attento alle cose nuove. Conversare con Mario, comunque la pensassi, non ti faceva mai sentire a disagio. Quindi una persona sì del Novecento, ma una persona aperta e disponibile a capire e a interpretare il presente. Quando un anno fa siamo andati a trovarlo, era già molto provato dalle sue malattie, eppure con le sue poche parole e i suoi sguardi, oltre alle cose che diceva giustamente Alessandro, ci trasmetteva ancora questa apertura e questa curiosità. Penso di poter dire che era molto contento di quella visita. Noi quella visita l'abbiamo pensata per sincero affetto. Per lungo tempo avevamo rinviato, anche se le notizie che ci arrivavano da Piombino non erano particolarmente buone per il solito tran tran che ci occupa. Finalmente abbiamo preso le decisioni, ci siamo andati, proprio con sincero affetto, senza nessun'altra fine. Ma a pensarci bene è stato anche un atto di forte riconoscimento, magari non costruito e organizzato, e come tale forse anche più forte che se l'avessimo pensato in termini così più organizzati, più costruiti, perché è davvero sincero. E abbiamo davvero sperato che in quell'occasione non fosse l'ultima occasione, che la sua tempra di combattente l'avrebbe fatto arrestare più a lungo con noi, e così non è stato. Io sono davvero contento di questa iniziativa, perché è dell'intervista che abbiamo realizzato e dei racconti che adesso sentiremo delle altre persone che l'hanno conosciuto. Ma io penso che proprio per questa ragione Mario ha ancora molto da insegnarci. Mario è stato anche un militante del Partito Comunista Italiano, quindi noi abbiamo chiesto a Gianfranco Garganico, perché in quel tempo era nella segreteria del Partito Comunista, si occupava della commissione fabbrica, credo si chiamasse così in quei tempi gloriosi, di portare anche a suo ricordo di Mario Pescini. Ringrazio tutti voi, ringrazio la segreteria della Camera del Lavoro e Alessandro Tartini per questa iniziativa. che ha voluto riportare Mario in questo modo, e grazie anche ai, come dire, ai diversi, alle diverse cose che Mario ha fatto. Perché Mario ha fatto tante cose, io voglio partire da questo. Dalla Fiom all'Hauser. E chi di voi fa parte, come tutti noi, di questo grande movimento che è la CGIL, che è stata il PCI e la sinistra italiana, dalla Fiom all'Hauser c'è un po' di differenza. Allora, solo in questo suo percorso e per il modo come ha fatto sia l'una che l'altra cosa in questo percorso, io credo che un primo tratto che esce è un tratto di Mario di utilità, di coerenza e di profonda intelligenza politica. Perché dove ha svolto un ruolo, io poi non ho mai avuto l'opportunità di lavorare con lui, ma naturalmente l'ho frequentato, abbiamo vissuto poi esperienze. Mi pare questo un primo tratto di fondo, la sua duttilità e la sua voglia di capire. Quindi fare bene l'Auser e fare bene la Fiom, fare bene la contrattazione in siderurgia e organizzare il volontariato, che sono cose diverse, ma sono cose sulla quale ci vuole l'anima e ci vuole capacità. Io di Mario voglio ricordare poche cose, poi ci sono altri interventi, ed è la prova anche di Mario, nel senso che gli altri interventi sono interventi di esperienze di Mario fuori dalla nostra provincia, e anche questo è un dato. Io voglio ricordare Mario nel periodo del suo arrivo a Roma. Eravamo, credo, sicuramente nella primavera del 73. Per un certo numero di mesi, che prima di andare ad abitare a Dappiano, Mario e Mirella erano ospiti della scuola del Piccino Faggetto, anch'io mi unisco. Va detto subito che ricordare Mario significa inevitabilmente parlare di Mirella e poi di Dario, perché questo è un tratto comune che è corso dentro la nostra storia, che è corso dentro i nostri rapporti. Io allora abitavo ancora Nesso, cito questo, essendo Faggetto a pochi chilometri, più di una sera ci vedevamo. Allora lì, come dire, ho scoperto Mario e Mirella, ho scoperto Mario che veniva fuori un dato, che nonostante la stessa militanza nella CGIL e nel PC, erano due mondi diversi che cercavano di conversare. Nel senso che c'era la Piombino a totale egemonia del PC, mi pare che il peso elettorale fosse di quasi due terzi, e da noi era quasi l'opposto. Allora questo era il tratto. Mario poi lo dice anche nelle sue memorie, lui usa un termine, la scoperta del mondo operaio cattolico, cioè questa fatto che si facevano riunione, e lo diceva lì, cominciava a dire, ma riuscite ad andare a fare riunione all'oratorio e addirittura nelle parrocchie. Quindi emerge questo dato. Allora io credo che lui ha capito alcune cose, che poi eravamo ai tempi del Vaticano e del Vaticano II, dove c'era un pieno dispiegamento da questo punto di vista. E insieme, dicevo, io ho scoperto un mondo nuovo, io ho scoperto che, voglio dire, una vera coscienza cristiana, lo diceva in questi termini, non può che aspirare anche lui, una vera, anche lei una vera coscienza cristiana, a una società più giusta. E quindi vedeva dentro nei valori la possibilità di fare un'operazione che dove prevalse la sua voglia di capire. Ecco, queste serate che erano chiacchiere, che erano momenti, ma erano belle serate dove questi mondi si incontravano e dove questi ragionavano, e poi ricorrevano i nomi di chi è anche presente molto in questo stato. Nel luglio di quell'anno, poi, questo è il secondo bel ricordo che ho, io allora ero poi andato a lavorare, come dicevo, Tarpini alla commissione fabbriche del PC, Il secondo bel ricordo è il congresso di Bari, che si è svolto dal 1 al 7 luglio del 1979. Partimmo, la delegazione partì da Como in Pullman, facemmo tappa per fare un bagno a San Benedetto del Tronto. Allora ricordo questo per ricordare che cosa? Che in quella sede, naturalmente c'era anche Mirella assieme a Mario, è stato uno dei momenti in cui in Pullman, in cui al congresso di Bari, la CGL fece il congresso di Bari perché c'era il problema del sud, quel congresso fu preparato con un manifesto di Guttuso, cioè poi io ho segnato i nomi, c'era Marte Ferrari, Domenico Meloni, Renzo Zambra, c'era Giovanni Gandola, cioè c'era il gruppo dirigente che assieme a Mario, e anche quello è stato un momento di grande crescita. Cioè, io credo, parliamo di qualche cosa avvenuto ormai 40 anni fa, però è stato un grande momento, il congresso di Bari, questa messa a punto del riscatto del sud, e ecco Mario dentro questo è stato un momento di grande collegamento e di poi io Mario l'ho rincontrato continuamente dentro al lavoro più di natura politica. Il suo approccio era di questa ironia, era un'ironia che ti faceva poi uscire anche da situazioni dove alle volte c'era qualche contrapposizione, quindi una capacità di questo punto di vista. Il congresso di Bari, ritorno a dire, poi c'erano Lama, c'era Sergio Garavini, segretario nazionale dei tessili, c'erano Bruno Trentin, c'erano uomini di grandissimo calibro, e quindi era una vera scuola. Io parlo di un periodo in cui avevo poco più di 25 anni, quindi una cosa straordinaria da questo punto di vista. Poi Di Mario, voglio dire l'ultima cosa, puoi fare una riflessione. Dopo l'esperienza regionale, Mario torna a Como nel 1988 e torna a Como e viene eletto il segretario dello SPI dentro la tornata dei soli congressi di categoria, perché ci fu una sola volta che si fece la tornata dei soli congressi di categoria. Allora, anche qui, io lo ricordo bene, ritorna come segretario dei pensionati, come sempre è per ognuno di noi, è una prova, perché bisogna sapersi misurare, perché ci si misura, perché il sindacato pensionati, quindi in questa nuova funzione c'è il sociale e tutto quello che è importantissimo, che è fuori dai luoghi di lavoro. Cioè Mario ha la capacità di capire che c'è tutto un mondo, che c'è la possibilità di difendere i lavoratori fuori dai luoghi di lavoro, e da questo punto di vista contribuisce a costruire una strategia che fa sempre più forte il sindacato pensionati e che lo porta poi a svolgere il ruolo che ha svolto e che sta svolgendo ancora adesso. Io per concludere la voglio dire in questi termini, che poi in modo come già altri hanno importanti. Io credo che Mario è la prova che le classi subalterne possono non solo emanciparsi ma diventare classi dirigenti, perché la sua origine, quello che lui ha fatto. Guardate che se noi non abbiamo l'orgoglio di sapere che veniamo da classi subalterne e che dobbiamo fare uno sforzo collettivo per emancipare noi stessi e le classi subalterne, io credo che Mario questa cosa l'ha compresa fino in fondo. Mario con altre migliaia di persone come lui è la testimonianza storica della seconda metà del Novecento, della conquista della democrazia e del suo sviluppo, di far convivere democrazia e sviluppo, della capacità di rappresentare i sentimenti e gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori con la consapevolezza, questo era il dato che lui metteva in campo, con la consapevolezza che questi si affermano quando noi sappiamo rappresentare anche gli interessi generali della società dove operiamo. Allora io dico, Mario, sei stato una grande parte importante della nostra storia, di questo territorio al quale hai saputo riconoscerti e ai quali hai dato molto. Io credo che Mario, poi ogni tanto ci stimolavamo nelle discussioni, lui diceva: guardate che non c'è mai un conflitto risolutivo, il conflitto è fisiologico e non risolvi i problemi una volta per tutti, perché fai la contrattazione, riesci a vincere una lotta, ma non c'è un conflitto risolutivo, perché è la società che è fatta in questo modo. Allora io credo che questo insegnamento, questa idea che il conflitto non è risolutivo, ma che ogni volta devi spostare in avanti o comunque... Allora io credo che la storia di Mario è quello di un quadro politico della Prima Repubblica, ma politico non sta per partitico, ma per di una persona, di un quadro che ha una visione, un profilo che consente di pesare, di influenzare i processi sociali ed economici. Noi l'abbiamo rivisto a settembre, l'abbiamo rivisto con la dirigenza della Camera del Lavoro, con Maria Grazia Roncoroni che è venuta con noi. Io credo che in quell'occasione, questa è l'ultima cosa che voglio dire, Mario, nel colloquio che abbiamo avuto in quella giornata e mezzo dove ci siamo rivisti, era la prova fisica anche di Mirella, ovviamente per le ragioni che abbiamo detto prima, del suo forte rapporto con Como, perché come ci ha visto, come ci siamo messi a chiacchierare, come si fa in quelle occasioni, sentivi profondamente che la sua vita era in questa parte di territorio dove aveva fatto queste esperienze. Allora io dico grazie Mario ancora una volta per tutto quello che hai contribuito a fare anche su questo territorio, e credo che il filmato, l'ora e mezza, le modalità con le quali il gruppo dirigente della CGIL potrà e saprà usarlo è davvero un insegnamento per una cosa grande che abbiamo vissuto e che dobbiamo continuare a vivere. La mia ultima esperienza è stata fatta all'Auser di Como, di cui tra l'altro è stato primo presidente e fondatore. Tra l'altro tengo a ricordare che quest'anno cade il 20° anniversario della costituzione di Auser Como. Abbiamo chiesto a Sergio Veneziani, che è presidente dell'Auser regionale, di raccontarci la sua esperienza con Mario Pescini. Però io con Mario sono un po' più avanti che l'Urali, perché sono stato ai tessili, ai pensionati e all'Auser, quindi non perfetto. Ovviamente i ricordi più belli, mi spiace dirlo, però coincidono con l'esperienza che abbiamo compiuto insieme al sindacato tessile. Sicuramente perché avevamo 30 anni meno tutte e due, quindi c'era molto più vigore, molto più voglia di esultare nelle nostre cose. Però io dei ricordi straordinari, poi alcuni li dirò, ma ricordi molto belli. Io non parlo di quell'esperienza dei testi perché so che Mario Costelli racconta a lui questa meravigliosa e straordinaria avventura di quel gruppo dirigente del sindacato tessili della Lombardia. Però con lui mi ricordo un rapporto personale, ci incontravamo, se Miranda ricorda venivo una volta a Piacenza, siamo andati a mangiare assieme, siamo venuti noi, insomma si era costruito un rapporto anche personale abbastanza solido. Io poi non sono andato a settembre, però tutte le volte che Gianfranco mi diceva guarda che Mario, lo chiamavo ed era felice, insomma, mi faceva molto piacere il fatto che ricordassimo assieme questa esperienza. L'esperienza nello SPI è stata un'esperienza abbastanza non molto intensa di rapporto, di relazione, perché avevamo percorsi paralleli ma non che coincidevano. Poi è venuta l'esperienza dell'Auser. E qui io voglio ricordare due cose sostanzialmente, anche molto velocemente. Un mio ragionamento sulla persona e poi alcuni ricordi. Voi dovete sapere che io immagino che riusciate a capirlo, che per un dirigente che aveva alle spalle la storia strutturata, organizzata, proveniente dal Partito Comunista, dalla Grande Fiom, dalla CGL, andarsi a infilare nell'Auser era, definiamolo un'avventura, ma l'era davvero, insomma, cioè si passava, cioè in sostanza noi non sapevamo allora cosa fare né come farlo, però abbiamo deciso di farlo. E questa è stata la grande, cioè l'ennesima dimostrazione, e io non avevo riflettuto sulla cosa che raccontava Luraghi. È vero, secondo me, che c'è in Mario una grande continuità fra i pionieri e poi il volontariato. Sostanzialmente quello che ha legato quella cosa lì è l'idea di essere di aiuto agli altri, alle persone. Guardate, noi, quando io, lui è venuto molto prima di me all'Auser, poi quando io decisi, tra l'altro la storia dell'Auser si lega molto a due personaggi comaschi, uno era Franco Mauri e l'altro è Mario Pescini. Quando io venni all'Auser, Mario era già qui e cominciamo a fare delle grandi discussioni, perché nel 99 cominciò una fase, una storia nuova dell'Auser. Si passava dal pionierismo più totale assoluto all'idea di costruire una struttura organizzata, e con Mario facevamo moltissime discussioni. Cioè, adesso detta così sembra molto, molto complicato, discutevamo della sussidiarietà, ma che poi si traduceva nel fatto che noi o aiutavamo le persone o non le aiutavamo, e se le aiutavamo, se sostituivamo la manodopera dei lavoratori dipendenti. Cioè, c'era una discussione molto bella, molto grande, però poi finiva sempre che lui diceva: beh, intanto adesso facciamolo e poi vediamo come correggere le cose. Sono stati anni, lui ha contribuito assieme a Franco Mauri, assieme a quelli che siamo adesso a regionale, che poi fortunatamente il prossimo anno cambieremo, perché così c'è un rinnovamento, ha contribuito a costruire un'idea nuova di Auser. Siamo passati da un'associazione di volontari ad una delle più forti associazioni di volontariato che esiste in Lombardia, cioè, e si è costruita su persone come Mario Pescini, che qui giorno per giorno facevano i conti, oltre che con l'idea di costruire, di aiutare le persone, anche come farlo. Perché guardate, aprire dei circoli Auser, avere a che fare con i volontari, costruire un'identità, è un lavoro tremendo. È gratificante, perché poi quando costruisci un rapporto, il rapporto rimane, si consolida. E una delle qualità grandi che io ho sempre riconosciuto in Mario era la capacità di relazione con le persone. Ora, io non voglio entrare, perché io penso che sia Tarpini che Luraghi che Gianfranco hanno detto tutto quello che si può dire della storia di Mario. Rimangono alcune idee, alcuni ricordi, alcune esperienze fatte assieme. La prima è che lui è una persona che mi diceva: guarda, che si riparte sempre da cose nuove, non si finisce mai. Lui me lo diceva, che aveva alle spalle proprio un'esperienza di cambiamento. Adesso non mi ricordavo più che volevano mandarlo a Praga, ma la storia è che non era mica un grande radar in quel periodo, ma comunque cioè, lui era una persona che era disponibile sempre davvero a mettersi in gioco, ed era una persona che una volta che costruiva rapporti e relazioni costruiva un rapporto di fiducia. Pensate che Mario Pescini si fidava degli orari di Mario Agostinelli, che secondo me è una dimostrazione rispetto alle sorti dell'umanità di disponibilità totale assoluta. Abbiamo fatto 6 anni assieme e ne abbiamo patite di tutti i colori. Ma era una persona che quando entravano, cioè, ad esempio, noi eravamo un gruppo in tessimi, abbastanza giovane, abbastanza anche informale, Usiamo per dire. E Mario era quello che diceva: beh ragazzi, ma siete sicuri che facciamo una cosa giusta, la facciamo bene? Una volta che assieme si decideva a trovare un punto di riferimento, era solido, costruiva con noi le strategie. Lo stesso è valso per l'Hauser. Guardate, cioè non mica sempre le cose sono andate bene dentro l'Hauser. Noi abbiamo avuto delle paure, delle preoccupazioni. All'inizio del 2000 le risorse non c'erano, dovevamo inventarci e inventare cose, facevamo la testa sulle spilline, tanto per capirci bene, cioè questa era la dimensione, però avevamo capito, e Mario per primo aveva capito che lì c'era un futuro, c'era un pezzo di Stato sociale che si metteva in gioco, e questa è stata secondo me la sua grande intuizione, poi la sua grande disponibilità, e anche per noi costruire il pezzo di auto con dentro persone come Mario Pesini è stato avere la possibilità di contare su persone sulle quali si poteva contare. Ho detto che facevamo grandi discussioni, poi prevaleva il senso del fare e le occasioni sulle quali noi abbiamo discusso. A volte c'erano situazioni di attività di volontariato non chiare. Alla fine però Mario continuava sempre a dirmi: tu alla fine devi pensare se quella persona che noi aiutiamo ci guadagna, se quelle persone ci guadagnano. Dopo discutiamo di tutto e del resto. Io ho sempre conosciuto Mario, mio, alla fine, come una persona parsimoniosa, usiamo questo termine, ma non è così. Ma il ragazzo Roncoroni mi ricorda che lui era un grande conoscitore di vini. Io, quando lui ha incominciato a sentire l'esigenza di conoscere i vini, io me la ricordo bene. Eravamo nella segreteria della Filtea, decidemmo di partecipare a un comitato direttivo nazionale e, siccome andavamo tutti e cinque e non eravamo neanche tanti soldi allora, decidemmo per risparmiare di andare in macchina. Partimmo, ci fermammo a metà strada, uscimmo dall'autostrada, andavamo a mangiare una trattoria e consumammo un pasto normale, solo che commettemmo l'errore di ordinare, che non sapevamo che cos'era, due bottiglie di Sassicaia. Adesso vi lascio intendere per quanto tempo poi non abbiamo più potuto fare rimborsi spese, perché non solo non risparmiamo sul viaggio, ma ci roviniamo per altri due o tre viaggi di conseguenza. Allora lì cominciò a dire: beh, bisogna che impari a conoscere i vini, perché questi qui me ne fanno tutti i colori, ma per la verità non lo sapevamo nemmeno noi, e ce lo ricordava tutte le volte, poi diventava anche materia un po' di scherzo fra di noi. Io finisco con una. Io mi ero scritto qui e lo dico. Io ero socialista, sono stato socialista e lo sono ancora. Io penso di essere stato molto stimato da Mario, proprio per il mio essere socialista, perché ho sempre riconosciuto in Mario. Mario era un comunista buono, bello, di quelli che se la gente l'avesse conosciuto non pensavano che si mangiavano i bambini. Per l'ultimo contributo cedo la parola alla persona che probabilmente ha lavorato di più gomito a gomito con Mario Pesini. Mario Agostinelli è stato tantissime cose per la CGIL e anche per la politica lombarda. Credo che però rispetto a Mario Pesini il ricordo più forte ce l'abbia avuto quando lui faceva il segretario dei tessili e Mario organizzativo regionale. Io innanzitutto voglio proprio dirvi della gratitudine per poter essere qui, perché ricordare Mario e farlo ciascuno con un suo pezzo dice da solo della grandezza di Mario. Cioè un mosaico questo che si compone, si potrebbe comporre anche di altri contributi senza doversi sovrapporre uno all'altro. E così anch'io scelgo di essere abbastanza breve e di dare però il segno per cui Mario era un dirigente, usiamo la parola che tutti amato, cioè che non è una cosa scontata, un dirigente amato vuol dire che è credibile, ma anche che probabilmente è tanto generoso a volte da non mettersi alla testa di qualcosa per cui batte, per cui crede e che magari non convince. Ecco, lui era, a mio giudizio, capace di questo, perché aveva delle idee molto radicate, molto forti. Cioè, Mario non era, adesso tutti dicono, molto, però era anche uno che aveva la testa piuttosto che Juncker, insomma, nella scelta delle cose. Ecco, io vorrei partire da una vicenda che per certi versi ci accomuna. Cioè, guardate che il fatto che lui sia stato un po' straniero che arriva a Como non è dovuto al fatto che lui viene da Livorno. In una provincia come Como, come Varese, che sono vicini, tutti quelli che vengono da fuori sono considerati un po' stranieri. È vero, è così. È un segno di identità, però è un segno anche di vivacità, ecco, della storia e del movimento che abita in queste due province. Tra l'altro, io parlo proprio di questo, perché è nata lì la nostra amicizia, perché eravamo tutti e due stranieri, insomma, in un certo punto. L'affinità tra Como e Varese è un'affinità profonda, anche dal punto di vista della tipologia industriale, ad esempio. Però la cultura sindacale e anche la vocazione produttiva di Varese e di Como sono molto diverse. Cioè, per dare un'idea, lui viene a Como e mi ricordo quando io vado a fare le 150 ore a Varese e sono anch'io in Fion, lui mi racconta che non è facile entrare a Como e io gli racconto che è molto difficile entrare a Varese. E cominciamo a parlare di questo. Perché voglio raccontare questo aspetto? Perché tra l'altro, te lo ricordi, diventano amiche anche le mogli, no? Perché ci si sente questo elemento della persona che si gioca complessivamente e la diffidenza rispetto alle esperienze, alle culture che vengono da fuori mettono molto la prova. Cioè il nuovo venuto viene un pochino instradato. Si fa così. Io vi faccio un esempio di un varesino che è venuto a Milano, a Come faceva fatica, Barone, no? Cioè, lo dico perché fa parte di una certa, come si può dire, di un'abitudine che però sente di dover andare al di là dei propri confini. La borghesia, ad esempio, locale, non ha questo problema. Cioè, anche chi, la classe dirigente di Como è comasca. Il suo sindaco non sente il bisogno di andare fuori, il sindacato invece sente sempre il bisogno di rompere questi confini. Da questo punto di vista, per Mario e anche per me, che chissà perché, io lo devo confessare, avevamo un certo innato antifemminismo, pur volendo molto bene le nostre compagne, il fatto di andare in una categoria dove i quadri erano donne era un problema non indifferente, insomma, non indifferente, perché significava, ad esempio, misurarsi con un tipo di tenacia e con un livello di mediazione molto inferiore a quello che noi praticavamo. Cesarina, ad esempio, era una cosa, ricordo, non così. Da questo punto di vista, il fatto poi che la sinistra in tutte e due le province fosse un po' minoritaria, e beh, ma quando si è minoritari però arrivano anche tutti gli antagonisti un po' a stringersi attorno. Quindi chi fa un'esperienza, ad esempio, nella sinistra, nel sindacato, a Como a Varese, lo fa in un quadro più ampio che non solo il sindacato, lo fa ad esempio mettendo insieme tutti gli aspetti minoritari che hanno bisogno di riscattarsi. Ecco, e procedendo con questa prima parte, voglio proprio arrivare al punto che a me ha colpito di più di lui. Cioè, noi dovevamo Parlo di noi perché è andata avanti per molto tempo anche un'esperienza di confidenza personale. Dovevamo ambientarci in ruoli di prima responsabilità, in luoghi dove era grande l'evoluzione sociale e eccellente l'attività produttiva, cioè a Como, a Varese, non si poteva facilmente sbagliare, insomma, settore serio, settore della moda, dove era un'associazione industriale così strutturata, forte, nobile, e dove abbiamo provato invece a misurare che c'erano delle ragioni per cui questo aspetto che io ho voluto sottolineare oggi, ma del continuo confronto con la gente con cui cominciavamo a lavorare di tutta l'importanza. Il fatto che sia io che lui avevamo però un'esperienza ben diversa, cioè lui aveva una straordinaria esperienza, veniva dall'Ilva, veniva dalla fase in cui era stata emarginata addirittura la Fiona per un periodo lungo, io venivo dalla ricerca, da un'altra professione, ma tutte e due potevamo mettere a disposizione l'esperienza precedente in un luogo dove quelle cose che avevamo da dire non erano scontate. Faccio un esempio, c'è tutta l'analisi, io qui vedo Moretti tra l'altro che ha partecipato a questo lavoro, dell'evoluzione del macchinario tessile qui, nei momenti in cui arrivavano i treni di macchine nuove, cambiavano le tinte stamperie. Io mi ricordo una volta che io e Mario siamo andati lì vicini, sotto l'ospedale Sant'Anna, cioè a vedere, buttavano giù un muro per poter far entrare una, come si chiamava? La. Allora, la nostra esperienza però di contrattazione, la mia anche di conoscenza un po' tecnico-scientifica, potevano dare una mano formidabile a comporre il quadro di un conflitto che allora, guardate, io lo dico a onore non solo di Pescini, ma di tutto il sindacato, era complicatissimo. Cioè tutti adesso mi dicono, ma guarda che adesso è un casino, no? E ancora, guardate che dover affrontare la ristrutturazione del tessile, che tutti dicono, non so se andate a vedere la letteratura perfino americana, pensano che è la più grande ristrutturazione di settore in un tempo così breve. E farlo, giungendo addirittura a diffondere e a rendere praticabile dappertutto la riduzione dell'orario di lavoro quando eri debole, cioè quando ti buttavano fuori, riuscivi a imporre di ridurre l'orario di lavoro. Oggi non ce la stiamo facendo, sono tutte così. Cioè riuscivano a imporre che le macchine nuove venissero contrattate prima, ne compravano tante perché rimanessero 60, ad esempio, è vero Veneziani, le filatrici sulle nuove macchine che mettevano. Cioè, come dire, c'era un ruolo dirigente del sindacato addirittura sulla progettazione della fabbrica Ventura. E chi meglio, ad esempio, di uno che aveva fatto un'esperienza come questa poter davvero da questo punto contribuire? Io mi ricordo di aver fatto una prima, la dico perché, chissà perché, mi è venuto in mente e mi faceva un po' ridere, una prima fase di ristrutturazione alla Martinetta, una fabbrica che è a metà Carnago, e c'era Zambra. Zambra mi ascolta un po' e poi mi dice, ma senti, la prima cosa però da riconvertire è il camion che va da Carnago, cosa che è un esotau vecchio rimorchio, e che andando in giro fa fare brutta figura all'azienda, no? E sembrava dicessimo una sciocchezza, l'azienda si siede al tavolo e dice io compro un camion nuovo, cioè faccio andare avanti e indietro un camion nuovo. Questo per dire che noi abbiamo vissuto un periodo in cui i cambiamenti, gli organici, le qualifiche, i ritmi, le assegnazioni dei macchinari toccavano la vita della maggior parte della popolazione che c'è qui. Oggi non è esattamente così. Cioè, ma non il lavoro, la vita di quelle persone lì. Per farlo bisognava fare tantissime assemblee. Bisognava avere i consigli di fabbrica, bisognava essere unitari il più possibile. È vero o no? Non so, io mi ricordo che questo dato è un dato che io ho sugli appunti, li ho tenuti tutti, che mi aveva dato Pescini nell'84. sui consigli di fabbrica. Nel 69 erano 44.000 dipendenti tessili che leggevano delegati unitari in tutta Italia. Nell'80 diventano 200.000 con 2.100 consigli. Cioè noi vivevamo quell'esperienza lì. Quindi non era solo un'esperienza. E la vivevamo, ad esempio, lo voglio dire qui, con una solidarietà, ad esempio, del gruppo di segreteria. Io li ricordo tutti, Ghezzi, Deschi, forse la Fogazza, Veneziani, il Mario, che andava molto al di là dalle diverse opinioni che avevamo, al punto che si è consolidata. Io credo che questa forma di reciprocità ha fatto durare la presenza di Mario anche oltre al fatto che lui è stato comune. Cioè quella, è come se fosse stato un eco di questo rapporto che avevamo il coraggio a volte di tenere fino in fondo. Vi racconto una cosa straordinaria. E non leggo perché poi tanto lo leggo. L'82 si apre il contratto dei tessi, un contratto ambiziosissimo. Tutto ci giochiamo, tra le politiche, l'orario. Dopo 2-3 mesi la Confindustria dà la disdetta della Scalamoglia e la nostra segreteria si riunisce, lui dice, ragazzi, io cosa faccio adesso? E Mario gli dice, ma tu di che gli altri hanno tutti deciso così e che tu non ci puoi fare niente, no? Allora io lo guardo e dico, beh, ma scusa, non si può dire che abbia fatto una riunione in segreteria. E allora alle 10 di notte viene pizzinato nella sede di Corso Italia e rimane fino alle 4 del mattino con tutto il quadro del tempo, il quale insieme dice prepariamo e lanciamo la manifestazione a Confidenza, però nello stesso tempo mettiamo in piedi l'avvio e il recupero della nostra base contrattuale, non possiamo giocarci un pezzo, e decidiamo quel giorno lì, facciamo 3 giorni di presidio alla Federtessia in pieno casino in Italia, tutti che dicevano, diceva lì, cosa fa quell'altro, del turco che chiamavano così, noi facciamo 3 giorni davanti alla Federtessia con canti, balli, con la polizia lì, e otteniamo lo sblocco, sembra, della vertenza, sembra, perché verso l'autunno entrano in gioco anche i metalmeccanici e chiudere quei tessili vuol dire aprire anche l'altra fase. Tutto si richiude e noi decidiamo di dar vita ai precontratti e lo decide, vi assicuro, la segreteria della CGL della Lombardia. La Fittea, scusa. Andiamo al nazionale. La Marcellino ci ascolta molto attenta, dice, ma tu... Amoretti dice, ma non se ne parla neanche, e dopo un po' però interviene Pescini e Amoretti dice, se lo dice anche Pescini, capite? Cioè lui era quella parte che quando si convinceva dava anche questo livello, no? E facciamo 116 contratti. E allora finisco così. Verso la fine facciamo un comunicato e entra di corsa nella mia stanza, vedete, racconto questo perché Mario era proprio anche questo, insomma. Entra di corsa nella mia stanza la Valeria Tamani, che era la segretaria, con la gola secca, cerca di dirmi che c'è al telefono Enrico Berlinguer. Passa Berlinguer, Berlinguer chiede dei precontatti, dice con un tono straordinario che gli sembra una vicenda unica e che lui vorrebbe venire a fare un'assemblea in un posto dove prevalgono le donne, perché di solito lo portano sempre dove ci sono gli uomini, dice di avere misura nella cosa, ma lascia, e intanto tutti si... La Valeria racconta a tutti e tutti vengono lì verso la porta. Io esco e racconto e non c'è Mario. E allora vado fuori, Mario è nella sua stanza che sta mandando via le lettere del direttivo. Io gli dico, ma ha chiamato a vedere il... E lui dice, e basta. Questa è una cosa che io non so come dire, ricordo Ecco, io vi chiedo scusa, ma volevo finire con questo tratto. Noi poi seguiamo tutte le ristrutturazioni e facciamo. Ecco, io volevo dire che lui viene poi, torna e va allo SPI, credo. Quando però lo SPI ha preso, è lo SPI dove le camere del lavoro sono già forti, l'Hauser viene perché il sociale e il territorio diventano importanti, perché si va oltre le categorie, credo, no? Che ci sia. Lui ne fa parte fino in fondo, segue questo passaggio e sente, io mi ricordo l'ultima cosa che facciamo insieme è il contratto artigiano, per esempio, che vuol dire un altro modo di sentire, no? Ti rivolgi anche a quei lavoratori che non hai incontrato per strada normalmente, vai oltre. E lui quindi fa parte, scompare insomma, dentro un'esperienza che non è conclusa e che però devo dire è al centro di uno scontro in cui l'accento di classe del governo attuale mi sembra non avrebbe potuto, ecco, mostrarsi così a quei tempi. Cioè, noi avremmo, credo, reagito, ma non perché eravamo noi, perché i rapporti di forza erano altri, insomma. Da questo punto di vista ho pensato più volte, concludo, che cosa direbbe Mario adesso, un po' la presunzione di farlo. Io credo che sarebbe soddisfattissimo se questo sciopero della CGIL dura e ottiene risultati, non solo se è la fiammata da rientro, insomma. Lo dico perché lui capiva che la questione dell'articolo 18 sta nel limite che lo Stato pone attraverso l'autonomia della magistratura, che è qualcosa di fuori dallo scontro tra il lavoratore e il suo padrone, il limite che lo Stato pone all'arbitrarietà dell'impresa. Se noi arretriamo su questo, anche le esperienze mie, di Mario, così, potrebbero non essere tramutate come vorreste tutti voi, ecco. Però questo è il mio racconto di un pezzo di Mario, che per me è così vivo da volervi lasciare una cosa un po' meno seriosa, insomma. Lui l'ha detto anche un po' veneziano, al sindacato era un po' tirchio. Quando io sono passato alla CGIL regionale mi ha chiesto che regalo volessi, perché lui era l'amministratore, come la Sassicaia, questa cosa. Io gli ho detto che mi sarebbe piaciuta una borsa perché poi avrei dovuto viaggiare. E lui andò personalmente in una fabbrica di borse, io credo del livello cinese, della Lomellina, che era molto buon mercato, mi ha detto lui, però non era la pace. E mi ha regalato uno scozzesino grigio con cui non credo si possa neanche andare al mercato, ma che conservo con grande, grande affetto. Vi ringrazio davvero di cuore, io credo, oramai pure io è da un po' di tempo che sono in circolazione e non ho memoria di molte iniziative di questo tipo che hanno visto una partecipazione così alta come quella di oggi. Io credo che anche questo sia un segnale dell'affetto che tutti noi continuiamo e continueremo a provare per Mario Pescini. Grazie davvero a tutti. Grazie infinitamente. Allora io ringrazio infinitamente tutti i compagni, proprio una cosa veramente, perché io qui ho trovato per pezzi della mia vita. Noi abbiamo iniziato la nostra vita in comune nel 72 alla manifestazione dei metalli meccanici a Reggio Calabria e lì è stato un discorso incontro politico che abbiamo fatto e nel 72 noi poi siamo rimasti insieme fino a oggi al 2012 e allora al 2011 e quindi è stato come i compagni hanno ben detto perché è stato questo la nostra vita è stata questa, non c'era lui senza di me, non c'era lui senza lui. Noi abbiamo iniziato a vivere la nostra vita è iniziata quell'ottobre, era il 21 ottobre del 71, mi ricordo bene, è iniziata lì la nostra vita. Noi ci siamo dimenticati di tutto quello che c'era prima, di tutto quello che avevamo lavorato alle spalle, è iniziata con una certa durezza, perché abbiamo avuto dei periodi veramente duri. Abbiamo avuto un grande coraggio, e anch'io credo, perché poi siamo stati un anno in mezzo lontani da tutte le famiglie che c'erano, come la mia, che aveva completamente ripudiato. Ecco, Mario era tutto quello che il compagno ha detto, però voi siete stati la nostra famiglia in questi anni, veramente, tutti voi, con tutti voi io ho un episodio che mi dice, ho un ricordo, un episodio di tutti, vedo Fra di Miro e mi ricordo sua moglie, Elena con la quale abbiamo condiviso, dovrei a tutti, a ognuno di voi, i corti, i funghi famosi, ecco, con tutti voi dovrei dire, ognuno di voi è un po', Mimmo e Antonio, con tutti io questo, quindi io vi ringrazio infinitamente. Certo che per me, Como, anche per Mario, Como è stato il cuore, perché Mario Como l'ha amato moltissimo, e anch'io, Como è la mia, io non sono, io più o meno sono una straniera, non sono la mia, io qui. Io sono andata via perché mio figlio volevo che nella sua grande autonomia, cioè volevo che mio figlio, non volevo che io imponevo la presenza, perché inevitabilmente sarebbe stato legato, e lui doveva essere autonomo, perché questo i figli devono crescere, camminare e essere autonomi, stai a casa. Allora, che cosa c'era di meglio di cogliere l'occasione per 300-400 km di distanza con un figlio così amato? Questo era il problema, mio e di Mario, forse più mio che di Mario. Però io sono andata via perché 400 km permettono a mio figlio di essere autonomo. E questo era il concetto di autonomia e di libertà per un figlio che si era cresciuto con tanta cosa. Però io vi ringrazio perché proprio siete parte di me. Non so se io penso che ci rivedremo. Però volevo leggervi una cosa finale, tutti hanno parlato di Mario. Io ho trovato una delle sue lettere bellissime del 73 quando lo spedirono, perché ci fu Braga, poi lo mandarono via, poveretto, perché sapete, processi stalinisti, Federazione del BC, ha avuto tutt'uno prima di via, ha pianto anche, perché Mario era Mario non era rigido. Se qualcuno di voi ha letto Le norme della mitezza di Alberto Bobbio, Mario era un uomo mite, perché aveva quella, era un non violento. Quindi voi provate a leggere questo qui e ci ritrovate tutto male, perché lui era coerente, era intransigente, era proprio intransigente. Per forza l'uova di quaglia, non ricordo bene anch'io l'uova di quaglia, ci fu una Pasqua con l'uova di quaglia e lui fece una grande tragedia a un dei giovani dei tessili a Milano. Però mi lasciò anche per i soldi in cassa, mi lasciò, ma non dormiva. Era ma mi lasciò per i soldi. Io vorrei leggervi una... due frasi, proprio dal punto di vista personale, di quello che lui era, perché personalmente, perché tutto è diventato un uomo politico, ma vediamo un uomo che cos'era quest'uomo. Lui dice, una sua lettera bellissima, e dice, dovremmo essere capaci di insegnare a Dario che non è importante essere grandi, essere famosi, ma essere se stessi, capaci di lottare continuamente per non perdersi nella mischia, nello squallore di una vita monotona che non offre molto e non ci fa sentire realizzati, ma al contrario sempre disperati ed eternamente scontenti. Questa è la Maria, ha lottato tutta la vita per sentirsi realizzati.